aspettami che torno. Ciao, ciao, ma non so quando torno. Ciao, ciao, domani è un altro giorno. Vado via di qua, vado via di qua. Resto tra le nuvole sul serio, anche quando son già sceso dall'aereo. E te sei presa male perché resti a fumare da sola nella stanza con lo stereo. E poi ti svegli tardi quindi salterai lezione. E poi mi sveglio tardi quindi salto colazione. Scusa ma sto tempo è prezioso, solo un minuto. Se non c'era la musica io rimanevo muto. L'amore in città lo pago col mutuo. Lontano mille miglia, siamo senza famiglia. Ora ti stai mettendo lo smalto, mentre io sto salendo sul palco. Che non voglio essere uguale a nessun altro. Mi son tatuato un aeroplano per volare in alto. Io me ne frego di fare il VIP, me ne frega solo se rimani qui ora che parto. Ciao, ciao, aspettami che torno. Ciao, ciao, ma non so quando torno. Ciao, ciao, domani è un altro giorno. Vado via di qua, vado via di qua. Ciao, ciao, aspettami che torno. Ciao, ciao, ma non so quando torno. Ciao, ciao, domani è un altro giorno. Vado via di qua, vado via di qua. Oh no, per un po' suonami nell'iPod. Quando ti manco siamo pronti al decollo e devo spegnere il telefono. Oh oh oh oh oh oh. Prima di metterti con me dovevi pensarci. Ora che non mi puoi toccare puoi solo pensarmi. Non è perché non chiamo che sono infedele. In fondo lo sai bene, io mica posso salutarti in tele. Va tutto a gonfie vele, quindi se esco si contenta che ora faccio questo. Meglio in tour che al fresco. Torno presto baby, staccati dal Blackberry. È un'ora che mi cerchi, se mi prezzi lo sai che mi perdi. Solo in un posto arriva al mare, non sai che ti perdi. Non minacciare di lasciarmi, lo sai che mi servi. L'amore ci ha reso servi e schiavi. La distanza ci ha messo alla prova, ma siamo stati bravi. Ti chiudi in casa quando dormi, hai paura dei ladri. Ma adesso suono qua fuori, vieni alla porta e apri. Scoppiamo come draghi, ma finisce presto il sogno. Fuori è già giorno, ora vado e non so quando torno. Ciao, ciao, aspettami che torno. Ciao, ciao, ma non so quando torno. Ciao, ciao, domani è un altro giorno. Vado via di qua, vado via di qua. Ciao, ciao, aspettami che torno. Ciao, ciao, ma non so quando torno. Ciao, ciao, domani è un altro giorno. Vado via di qua, vado via di qua. Oh no, per un po' suonami nell'iPod. Quando mi manco siamo pronti al decollo e devo spegnere il telefono. Oh oh oh oh oh oh. Tu sei da sola nella stanza, ti guardo dall'alto ad 8000 metri di distanza. E via baby ti scrivo su WhatsApp, finisco questo kebab, mi preparo a partire, sono al warm up. Tu pensami quando il cellulare non accampo, quando sono via da una vita e ti manco. Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto, e sai che a stare via da una vita mi stanco. Indivisibili siamo la musica e la voce, sì. Testa o croce, vita lenta o vita veloce. Sentimi nelle casse mentre sto prendendo il volo. Oggi che i sogni degli altri sono il mio lavoro. E mentre dormi la mia musica ti veglia. In un mondo dove il mondo è molto meglio che da sveglia. Io parto ma lascio un po' di cuore nascosto, che tanto lo sai soltanto tu dov'è l'imbosco. Ciao, ciao, aspettami che torno. Ciao, ciao, ma non so quando torno. Ciao, ciao, domani è un altro giorno. Vado via di qua, vado via di qua. Ciao, ciao, aspettami che torno. Ciao, ciao, ma non so quando torno. Ciao, ciao, domani è un altro giorno. Vado via di qua, vado via di qua. Oh no, per un po' suonami nell'iPod. Quando ti manco siamo pronti al decollo e devo spegnere il telefono. Oh oh oh oh oh oh. Vado via di qua, e vado via di qua. Aspettami che torno, ma non so quando torno. Dogo Airlines.